sento sempre che parli, ma che ne sai di me? Sai che faccio il rap e mi chiamo Davide. A vendermi non sono tanto abile, perché non abitavo dove abitavi te. Questi dicono che dovrei tornare indietro, scendere la scala di un metro, e soltanto perché lo chiedo, no, lo punto a qualcosa di più concreto. Mi hanno detto non ci credo, ma poi mi fanno sempre squillare il telefono. Il sapore della sconfitta è amaro, è per questo che ti piacciono i dolci. Sei così occupato a grattare due rimborsi, ti mangiamo in testa nemmeno te ne accorgi. Frate, butta il braccialetto della speranza dal finestrino, che le strofe che scrivi le usiamo come digestivo. Mitraglietta di rime, me 16 galattica va sulla faccia. Andiamo a caccia, sparaci, prova, visto che fai il mafioso, non fai rap, fratello, per una minaccia. G-E-M, so, Cristo, fra, per, tra me, chi ti ha visto sa, per, dente, questo disco qua è per sempre. Quando siamo in giro la gente ci guarda, dicono quella gente che si ribalta, mentre ne fumano una, girano l'altra. Però quando stanno sopra al palco la gente sotto salta, salta, salta, salta, salta, salta, si te guarda, salta, salta, salta, salta, salta, salta, si te guarda, salta, salta, salta, salta, salta, salta, si te guarda, si te guarda, si te guarda. Parli, parli, parli, che ne sai di me? Che mi chiamo me e che faccio il rap, che mi odia mezza Italia e l'altra mezza mi ama. Fra la verità fa male, a volte è necessaria. Battermi il tuo sogno più ambito, ma da come rap ho capito che il mio flow ti ha ancora gradito. Chiamo un altro rapper fallito, io da solo sono granito. Fra, ti basterebbe guardare dove sto e dove sono partito. Quando spacci i tuoi slogan attento, perché la mascella ti si sloga dal mento. Primo se non rimo con parsimonia t'annento, secondo sei privo di qualsivoglia talento. Terzo più fel serio, più sul pezzo sembri comico. Quando dici che ci ammazzi passi per ironico, pensa che il capo del gioco dopo rompi il monito. Fammi dissi, intanto esisti solo se ti nomino. Passano gli anni ma tu non puoi rifare un'astrofa mia, perché sei così limitato che se mi metto nei tuoi panni c'ho gli attacchi di claustrofobia. Claustrofobia, con la mia gente lavoro sodo, batto cassa perché batto il chiodo. Vuolo, prendi il tuo posto nell'obitorio, lavi i denti con il colluttorio quando parli di noi, bro. Quando siamo in giro la gente ci guarda, dicono quella gente che si ribalta, mentre ne fumano una, girano l'altra. Però quando stanno sopra al palco la gente sotto salta, salta, salta, salta, salta, salta, si te guarda, salta, salta, salta, salta, salta, salta, si te guarda, salta, salta, salta, salta, salta, salta, si te guarda, si te guarda, si te guarda. Yeah.